Tempo di sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio, domani è il 3 settembre e compie 50 anni una delle imprese più memorabili dello sport italiano. Olimpiadi di Roma, una delle edizioni più affascinanti di sempre, se non la più bella in assoluto, e non c'è traccia di sciovinismo in questa valutazione, semmai c'è nostalgia per un appuntamento magico che il business, il marketing e qualche altra parolaccia, a mio parere, hanno irrimediabilmente inquinato. Sabato 3 settembre 1960, ore 18, finale dei 200 metri maschili. Due giorni prima, Armin Hari, il tedesco biondo, ha infranto il mito degli sprinter americani, infliggendo loro la prima storica sconfitta sui 100 metri. Sentiamo un cinegiornale dell'epoca, dell'Istituto Luce. C'è il rituale che precede l'ultima prova. L'unico ad essere calmo è Livio Berruti, che fa gli onori di casa, al dovere di ospitalità che gli compete, ai suoi rivali, preoccupati per la prova imminente. È il momento della verità. Berruti sorpassa le vittime della forza centrifuga. Un augurale volo di colombi e la vittoria. Tempo 20.05. Per due volte nello spazio di due ore, Berruti ha ripetuto il tempo del record mondiale. Beh, non so se piegato sui blocchi, non credo, o comodamente seduto e in ogni caso collegato con noi e magari anche divertito a distanza di 50 anni da questa abbondante spruzzata di retorica, c'è proprio lui, c'è Livio Berruti. Buongiorno Livio. Buongiorno a tutti, ciao. Ti sei fatto una mezza risatina o hai sentito un brivido a distanza di mezzo secolo? È sempre quello che ascolti con piacere, perché ti fai vivere un'atmosfera bella, irripetibile, che tu hai provato, che tu vorresti sempre rivedere, perché ti dà sempre delle emozioni particolari. Beh, lo credo, Livio, le dà a noi a distanza di mezzo secolo, a chi ha avuto la sfortuna anagrafica e la fortuna invece di esserci, se non altro davanti alla TV in quel giorno. Io vorrei che tu ci aiutassi a ricordarla quella giornata. Lo speaker ha detto che avevi disputato la semifinale esattamente due ore prima, erano proprio due ore? Perché a quei tempi semifinale e finale si facevano nello stesso giorno e a distanza di due ore e mezza, quindi quella volta furono due ore che sono intercorse. E l'aspetto più curioso e più originale di quel fatto è che, avendo fatto già il record del mondo in semifinale, tutti osannarmi, io invece preoccupatissimo di essermi stancato troppo, per cui mi sono rifugiato nello spogliatoio e sono rimasto inerte lì per cercare di raccogliere le forze e le energie per poi fare la finale, quindi commettendo uno degli errori più gravi che possa commettere un atleta, cioè non prepararsi scendendo in pista prima per scaldarsi i muscoli per confrontarsi in maniera totale con gli altri. Livio, torniamo allora. Tu sei appena tornato in pista, no? Hai commesso questo errore, riletto dopo, no? Evidentemente, non commesso volutamente o consciamente sul momento. Torni in pista, ti guardi intorno e ci sono ovviamente dei favoriti. Chi erano quelli che dovevi tenere d'occhio e in che corsia erano rispettivamente? Gli americani erano Norton e Johnson, che erano i due atleti più accreditati. Sì. Poi c'era invece il senegalese Franco Seye, mentre invece l'altro primatista del mondo che avevo sconfitto in semifinale, l'avevo fatto fuori, dall'inglese Redford, che ormai non era più in gioco. Sì. Ma sai, soprattutto quando parti, sei talmente concentrato nel fatto di pensare di non commettere errori che gli avversari li guardi ma con occhio quasi distratto, e quando sei in corsa che cerchi di ansiosamente ascoltare lo scalpiccio degli avversari se ti stanno avvicinando o meno. Io sapevo che il mio punto di forza era la curva, certo. Esco in testa e quindi cerco disperatamente quindi di allungare il passo per non ingripparmi, per non irrigidirmi, e poi di ascoltare se questo rumore selezionato, perché non sentivo il rumore degli applausi, ma sentivo il rumore dei passi degli avversari, si stava avvicinando meno. Ovviamente guardando ansiosamente il traguardo, che a quei tempi era un vero filo di lana, quindi era molto ben visibile davanti ai nostri occhi. Certo. Senti, e il gioco delle corsie com'era? Cioè tu eri più preoccupato dalla tua destra e dalla tua sinistra? Ma no, sai, normalmente Hai quello davanti, io direi l'impatto così ampio, e ovviamente tu guardi quelli davanti che sono sempre per effetto alto, del certo. diverso diametro della curva, sono davanti a te, quindi ti fanno da punto di riferimento e vedi che li raggiungi più o meno facilmente. Allora questi ti fanno la spinta supplementare per poterti presentare bene nel rettilineo finale, quindi gli avversari dietro quasi non li consideri, anche se a volte sono più forti quelli dietro che quelli davanti. È passato mezzo secolo domani, però è la prima volta che ho la fortuna di parlarne con te. Quella famosa e benedetta colomba, benaugurante, la vedemmo solo noi in TV o la vedesti anche tu in corso? Ma io mi ricordo vagamente di aver visto qualcosa svolazzare, però appunto, come dicevo, avevo lo sguardo talmente concentrato verso il traguardo e l'udito verso gli avversari che solo vagamente ho percepito questo svolazzare di un essere animato. E anch'io l'ho visto poi molto meglio nelle foto che sono apparse dopo. La cosa più curiosa è che anni fa ho partecipato a un congresso sul valore dello Spirito Santo nel secolo scorso e mi è venuto questa ispirazione di dire che anch'io ho avuto un aiuto dallo Spirito Santo. Livio, ti emozioni ancora a rivivere quella gara o non ti emozionavi piuttosto nemmeno allora? Io ho sempre avuto l'impressione che due grandi campioni quasi coevi, tutti e due piemontesi e nati a non molta distanza uno dall'altro, e cioè Teddy Vercelli e Gianni Rivera di Alessandria, aveste una tale naturale eleganza da una parte di gesto e predisposizione dall'altra, che in realtà non vi emozionavate nemmeno allora, eravate non freddi, ma era naturale per voi fare ma cose. Ma diciamo, era un bis di timidezza e di incapacità forse di esprimere esternamente i propri sentimenti interiori, c'è questa forma di pudore estrema, no? Che ti impedisce forse di essere troppo esaltato o troppo plateale nei tuoi atteggiamenti. Livio, io credo che a distanza di mezzo secolo tu abbia, lo vedo da qualche messaggio che è arrivato in tempo reale, abbia fatto tornare un pochino di pelle d'oca a qualcuno. A me certamente sì, e questo ti vale un ringraziamento speciale per allora e per adesso. Grazie mille e tanti auguri a tutti. Prima di cambiare argomento vi leggo qualche messaggio arrivato dopo questa rievocazione che Livio Berruti ha appena fatto della sua impresa di mezzo secolo fa. Francesco da Milano scrive: Berruti ha raccontato che si rilassava col libro di chimica, gli atleti di oggi lo fanno con la PlayStation o con l'iPod, come si fa a non rimpiangere i vecchi tempi? Francesco, non è detto che vadano rimpianti, erano diversi e secondo me ogni tanto vanno ricordati, poi ciascuno fa le sue valutazioni, lei mi pare che l'abbia fatta in maniera abbastanza chiara. Andrea da Pavullo invita a soffermarsi sul fatto che Berruti fece due gare di quella importanza in due ore e pensare che gli sprinter di oggi non possono più fare troppe gare ravvicinate, altrimenti si strappano. Sì, è cambiato tutto, sono cambiate metodologie, sono cambiate anche le masse muscolari, secondo me in maniera molto, molto significativa. Claudio Lalecco domanda: qual era il livello di doping all'epoca? Claudio, io non sono, allora ero un poco più un bambino, un ragazzino, quindi non sono documentato sull'epoca. Posso dirle che oggi Berruti a 71 anni è una persona che gode di eccellente salute, che sta perfettamente bene e che aveva questa dote naturale di saper correre in quel modo, senza sforzo apparente, ripeto, con un'eleganza inaudita e non era certamente il tipo da massacro in allenamento, anzi ha sentito come ha approcciato questa finale dopo la semifinale. Angelo da Cuneo scrive: la pelle d'oca Livio Berruti l'ha fatta venire anche chi a quell'epoca non era nato, a me per esempio. Bene, mi fa piacere. Dicevo che cambiamo capitolo, domani c'è il debutto ufficiale dell'Italia, sto vedendo su Sky in questo momento la formazione praticamente annunciata da Prandelli, anche se non ancora in maniera definitiva. La partita è impegnativa un po' per l'avversario, che comunque in Estonia non è, pur non essendo ovviamente una squadra di grido, non, una passeggiata non sarà, ma è impegnativa perché l'Italia ha qualche problema di organico, di salute fisica forse anche di forma, no? Visto che siamo a inizio stagione. E allora sentiamo qualche contributo vocale che ci arriva dal ritiro di Coverciano prima della partenza per l'Estonia. Per esempio questa disamina del nuovo uomo squadra, vecchio nuovo uomo squadra che è Pirlo. C'è da lavorare perché sono tanti giocatori nuovi, quindi bisogna un po' amalgamare un po' tutti, tanti è la prima volta magari che vengono anche in nazionale, quindi sarà un po' difficile le prime partite, poi pian piano anche con l'aiuto del mister e di tutti le cose andranno meglio, però all'inizio sicuramente non sarà facile. Spero di essere un giocatore importante ancora per tanti anni finché ce la farò. Vengo con un grande entusiasmo ancora in nazionale perché è dall'under 15 che faccio parte della nazionale, quindi me la sento addosso questa maglia. Tutte le volte che si viene in nazionale c'è ancora grande voglia di far bene, perché l'Italia ha l'obiettivo sempre quello di dimostrare la sua grandezza in tutto il mondo, quindi sappiamo di aver fatto un pessimo mondiale, però adesso si riparte da zero con l'obiettivo di arrivare bene agli europei. Dobbiamo scacciare i pensieri negativi, questo nel frattempo ha detto Prandelli nella conferenza stampa di vigilia. L'idea di non aver mai vinto in quest'anno solare può pesare sulla squadra, è vero. Questa non credo che Prandelli l'abbia detto per infierire o per marcare le distanze, ma è vero che l'Italia, nonostante quel, non dico ridicolo, ma insomma quasi girone di qualificazione ai mondiali, non ha vinto una partita, non ha ancora vinto una partita in tutto l'anno. Omar domanda: non pensa che dopo la prestazione con l'Inter Viviano meritasse le maglie del titolare? Io credo che Viviano per me è il più bravo dei giovani portieri italiani, non da oggi, però io credo anche che non sia una partita che orienta le scelte di un CT, fermo restando che Viviano fa parte della spedizione, e quindi immagino che prima o poi, è in attesa del recupero di Buffon, prima o poi penso che possa toccare a lui. Alterniamo voci che arrivano da Coverciano a voci che arrivano da voi ascoltatori. Antonio, provincia di Venezia, buongiorno. Dottor Garanzini, buongiorno, complimenti per la trasmissione. Grazie. Volevo porre la sua attenzione due aspetti in particolare della campagna acquisti della Roma. La prima, 15 milioni di euro per Boriello. Mi pare una fotocopia dell'operazione Adriano, che poi è stata fatta e è stata scartata subito dalle prime battute, a prescindere poi dall'infortunio che ha avuto. In secondo luogo, le volevo chiedere se dal suo punto di vista è pensabile che si spendano 15 milioni di euro all'ultimo minuto di l'operazione di calciomercato e si tralasci un problema che esiste a livello di difesa e poi anche a livello di portiere. Doni è stato scartato, è stato messo fuori rosa, non si sa perché e per come. Abbiamo un secondo portiere che è Lobont, a Firenze ha combinato quello che ha combinato. Ci apprestiamo ad affrontare una Champions League con Cassetti, unico terzino di difesa a destra, senza nessun rincalzo. Chiedo a lei, alla sua esperienza, se è possibile anzitutto essere a livelli competitivi e soprattutto se è un'operazione di mercato da ritenersi soddisfacente oppure no. Grazie. Se ne è parlato ieri da un altro punto di vista, cioè dal fatto se questa operazione fosse, non dico lecita, ma insomma se fosse poi così facilmente spiegabile che una squadra che in teoria avrebbe qualche problemino economico finanziario da tempo possa o meno permettersi un'operazione di quel genere. Entrando nel dettaglio tecnico, io credo che se quello era il reparto che la società e soprattutto il tecnico hanno individuato come quello da rafforzare, significa due cose. Il primo è che sapranno loro, evidentemente, immagino, dove hanno più lacune. In difesa, tra l'altro, si erano appena rinforzati con Burdisso, quindi erano tornati quelli dello scorso anno. E dall'altra parte significa anche, a parer mio perlomeno, che l'operazione Adriano, che già aveva una discreta area di rischio in partenza, o alla vigilia addirittura, se vogliamo, si sta rivelando ancora più problematica, insomma, ecco, perlomeno questa è la sensazione. Torniamo a Coverciano e sentiamo una digressione di Pirlo, questa volta, che non parla più di nazionale, ma parla dell'arrivo al suo fianco o davanti a lui, qualche metro davanti a lui, di un certo Ibrahimovic. cercare di vincere, abbiamo tutte le carte in regola per farlo, sia in Italia che in Europa. Adesso sarà il tempo, anche perché con due giocatori nuovi ci vorrà un po' di tempo per trovare i sincronismi, però i giocatori sono fortissimi e ci daranno una grossa mano per centrare gli obiettivi. I grandi campioni ce ne sono pochi e quindi è giusto che guadagnino tanto. Lui aveva già un contratto alto al Barcellona, per venire al Milan ha dovuto rispettarlo, quindi non c'è nessun problema, tutti i compagni sono contenti del suo arrivo e queste cose non si guardano. Torniamo adesso dagli amici già collegati. No, non ci torniamo, mi fanno segno che la linea è caduta. Allora ne approfitto per rispondere a una mail di Piero Rolla, che domanda il numero a cui inviare gli sms durante la trasmissione, che è il 349-238-6666. Torniamo a Coverciani in attesa di ripristinare il collegamento con l'amico ascoltatore e sentiamo, a proposito dell'infortunio di Cassano, sentiamo Gigi Riva. È chiaro che mettere in dubbio il fatto che uno abbia preso 24 ore così senza, insomma, un po' ridicolo, un po' anche stupido. Lui è rimasto a Genova per fare gli esami d'accordo con la federazione. E questa è la spiegazione di Riva a un ritardo, comunque a un arrivo non turbolento, come avrebbe forse potuto essere conoscendo il personaggio, ma insomma un arrivo leggermente slittato da parte di Cassano. Bologna, Stefano, buongiorno. Buongiorno dottore, complimenti. Io sono un grosso tifoso del Milan, contento per la campagna acquisti, però non felicissimo per l'acquisto di Pubigno. Perché avrei investito più che altro in difesa, perché se prendi Raffaele Nesta non mi sembra che siamo messi benissimo, e avrei lasciato Bobigno dove era e mi sarei tenuto o Untela o Boriello. Lei cosa ne pensa? Ma penso che siano punti di vista, e penso anche che una volta deciso di investire ad effetto, la linea fosse quella comunque di investire ad effetto più che non sulla sostanza. Quindi credo che il problema non si sia nemmeno posto, cioè un innamoramento recuperato, sappiamo di chi, recuperato all'ultimo istante per ragioni molto chiare che insomma, amici e nemici hanno individuato in ragioni, come dire, sondaggistiche, nella necessità di un recupero di popolarità in vista di altri obiettivi che non sono strettamente calcistici. Credo che la scelta fosse naturalmente indirizzata verso effetti speciali più che verso non effetti di sostanza. Allora, nel caso di Ibra i due aspetti coincidevano, nel caso di Robinho lei dice giustamente meno. Siamo collegati con Fabio Tavelli. Buongiorno Fabio. Buongiorno Gigi, buongiorno a tutti. Dopo una lunga estate, una lunga, sì, insomma, discretamente lunga estate di relax, no? Seguita al surmenage sudafricano, che però tu hai insomma hai molto accorciato per ragioni di calciomercato. Ci arriviamo dopo. Preferivo partire proprio da questi argomenti, dal ritorno in campo ufficiale delle nazionali. Ci sono state le amichevoli poco prima di Ferragosto, un po' per tutti, ma adesso si torna a fare sul serio. Il programma di domani, lo ricordo rapidamente agli ascoltatori, prevede in particolare Estonia-Italia alla sera alle 20:30. E il resto del menù, che adesso tu ci commenterai dal punto di vista dell'interesse, prevede in particolare Belgio-Germania, Francia-Bielorussia, e non sarà da poco vedere che tipo di accoglienze i francesi riserveranno allo Stade de France ai loro beniamini, anche se i reprobi colpevoli di Sudafrica non ci sono, Inghilterra-Bulgaria, e mi pare che per il momento sia tutto. Poi magari parliamo delle partite di martedì. Che cosa ti attira in maniera particolare? Ma soprattutto la Francia e anche un po' l'Inghilterra, devo dire, al di là poi dell'attesa che c'è per vedere la nazionale di Fabio Capello, che insomma, diversamente dalla Francia, non ha avuto quelle situazioni extra extracampo, ma che comunque è stata una delle grandissime delusioni proprio per il modo in cui è uscita. Credo che il ritorno di queste tre nazionali che sono state certamente tra le grandi delusioni, cioè l'Italia non qualificata nemmeno agli ottavi, la Francia non qualificata nemmeno agli ottavi e con tutto quello che è successo, poi con la decisione della federazione, la squalificata nel CA, i nuovi allenatori, cioè c'è un po' di tutto in questo venerdì. Già c'è il fatto che si giochi di venerdì, che è una discreta novità e che evidentemente fa sì che probabilmente a livello di UEFA si stia cercando anche di armonizzare il calendario per non gravare troppo sui campionati e sulla Champions League. Ecco Fabio, come lo spieghiamo? Come la spieghiamo questa non dico rivoluzione perché 24 ore, ma insomma comunque è significativa. Dal mercoledì sabato si passa dal sabato mercoledì, se parliamo di settimane internazionali, si passa al venerdì martedì. Perché? Beh, unicamente per dare la possibilità ai giocatori di un giorno in più per riprendere e recuperare per le loro squadre di club. Siccome settembre è comunque un mese pesante perché i campionati sono tutti cominciati, ci sono anche le partite di Champions League, c'è l'Europa League che ormai devo dire anche grazie poi alla rivoluzione platinista diventando un torneo davvero interessante e aveva perso tantissimo, ma poi con il fatto che Platini ha un po' depotenziato la Champions League, ma non è che l'abbia fatto apposta, però insomma si sono create le condizioni affinché nella Champions League ci fossero anche squadre non particolarmente di blasone, ha arricchito indirettamente, ed era anche abbastanza normale che fosse così, il plotone dell'Europa League, al punto che quest'anno l'Europa League ha veramente una grande dignità e anche le squadre italiane mi sembra che finalmente si siano convinte a volerla giocare per andare avanti. Detto questo, io trovo che sia una cosa intelligente, nel senso che giocare venerdì per le nazionali è la stessa cosa, per motivi televisivi io credo che un prime time del venerdì sia addirittura meglio rispetto al sabato, perché il sabato è comunque una sera nella quale molte famiglie, se vogliono, possono uscire, mentre il venerdì, che è un po' più da fidanzati che da famiglia, potrebbe dare anche delle soddisfazioni a livello di ascolto. Il martedì e il mercoledì sono giorni praticamente uguali, col vantaggio per gli allenatori poi di riavere i giocatori, diciamo, mercoledì pomeriggio e non giovedì avanzato, magari con qualcuno che doveva già preparare le partite del sabato. Sì, quindi mi pare una cosa saggia. Sì, sì, saggia e soprattutto che tiene conto del fatto che sono comunque i club sempre più, non dico a dettar legge, ma comunque a vedere riconosciute le loro esigenze rispetto alle nazionali, insomma. Beh, perché i club sanno e complessivamente lo sanno anche le federazioni, che senza i club le federazioni non potrebbero mettere insieme una squadra decente. E quindi è chiaro che il coltello dalla parte del manico ce l'hanno i club, che vengono anche risarciti degli infortuni, per cui è evidente che non si poteva più far finta di niente e dare campo totalmente libero alle federazioni. Io, se vuoi, potrei anche, come dire, allargare ancora di più e magari provare a tentare di dire che le qualificazioni agli europei così allargate sono diventate totalmente anacronistiche. Cioè, che cosa c'entri il movimento calcistico francese con quello bielorusso, il movimento calcistico italiano con quello delle isole Faroe? Io onestamente devo ancora trovare qualcuno che me lo spieghi. Sì, sì, questo un po' di fatica la si fa. Osservo di passata che evidentemente i tecnici di club saranno soddisfatti di questi 24 ore in più, così, alla stessa maniera in cui i CT saranno poco soddisfatti delle 24 ore in meno, perché giocandosi il venerdì, no, evidentemente c'è un giorno in meno di preparazione o comunque di ambientamento, perché poi più che di preparazione per le nazionali si parla, per l'appunto, di ambientamento, si parla di stare insieme, di conoscersi, di amalgamarsi un po' di più, visto che accade solo in maniera molto periodica. Però mi pare che questo aspetto l'abbiamo messo a posto bene. Rilevo di passata che il martedì invece, ma ci sarà poi tempo di approfondire, il martedì 7 settembre proporrà, oltre a Italia Faroe a Firenze e quindi al debutto casalingo di Prandelli, debutta per i tre punti alla guida nazionale domani sera, poi il debutto casalingo sarà per l'appunto nella sua Firenze contro le isole Faroe martedì, le altre partite di richiamo saranno quel giorno Serbia-Slovenia, Bosnia-Francia, Olanda-Finlandia, direi anche, Svizzera-Inghilterra certamente e, perché no, Norvegia-Portogallo. Questo è un panorama che introduce un panorama europeo che introduce quello che continueremo a fare quest'anno, come negli anni passati, almeno mi auguro, e cioè il fatto che tu, da ministro degli esteri, ci tenga informato ogni settimana degli aspetti più interessanti, ma anche più curiosi, che accadono sull'Europa, in Europa, dal tuo osservatorio privilegiato di Sky Sport 24. Beh, sarà per me ovviamente un grande piacere. I campionati sono iniziati tutti e andando un po' random, fanno abbastanza specie le difficoltà delle grandi squadre nel campionato francese, ad esempio. Per quanto riguarda il campionato inglese, la sensazione è che se la giocheranno sempre le solite tre, diciamo due e mezzo, perché è tutto da verificare la tenuta a livello complessivo a parte dell'Arsenal, che adesso ha anche il problema di Van Persie infortunato. Ci sono squadre come il Liverpool che invece dovranno accontentarsi di un campionato di medio-basso cabotaggio. Per quanto riguarda invece la Liga, anche qui è come l'Italia, i dati a disposizione sono scarsi, però già significativi. Cioè, il significato più così naturale che ha dato la prima giornata è che il Barcellona è ancora quella clamorosa macchina da guerra, è ancora quella fantastico insieme di giocatori capaci di esprimere un calcio che probabilmente nessuno sa giocare. Viene portato però una verifica importante, perché stiamo parlando di campioni del mondo, cioè stiamo parlando della squadra che ha dato quasi tutta l'ossatura portante alla nazionale di Del Bosque, e quindi si tratterà di capire come riusciranno a ricalarsi in una atmosfera non quotidiana, ma diciamo settimanale, nella quale trovare gli stimoli per andare a Santander, per andare a Mallorca, per andare a giocare contro l'Hercules, sì. Potrebbe non essere sempre la stessa cosa. Oddio, son partiti benino, a Santander li hanno trovati gli stimoli, no? A Santander li hanno trovati, E poi effettivamente. E poi naturalmente c'è curiosità per vedere cosa farà José Mourinho, che pareggia tutte le partite iniziali e poi piano piano migliora, però è anche vero che la stampa spagnola, lui ha avuto un approccio un po' più morbido nei confronti della stampa spagnola rispetto alla stampa italiana, però loro invece hanno cominciato a caricare il cannone e gli hanno fatto abbastanza notare che non può pensare di pareggiare 0-0 a Mallorca e farla franca, insomma. Senti, come sei uscito da queste due settimane, mi pare, di full immersion di mercato? Io ogni tanto accendevo la TV e ti trovavo alle prese con gli esperti di mercato di Sky e la cosa andava giustamente, inevitabilmente avanti per ore. Io sono rientrato dalle vacanze domenica 8 e non ho quasi più staccato fino all'altro giorno. È stato un periodo certamente stancante fisicamente, ma molto molto ricco di soddisfazioni, nel senso che ovviamente i dati d'ascolto possono valere quanto valgono e ovviamente per le televisioni commerciali valgono. Abbiamo avuto dei riscontri di ascolto veramente clamorosi e la cosa è a testimonianza che il tipo di argomento è comunque un argomento che tira, ma non basterebbe questo. Credo davvero che la squadra mercato, e sto parlando davvero da Gianluca Di Marzio, Luca Marchetti in giù, abbia creato davvero un gruppo, non voglio dire una scuola perché non è così, però anche un tipo di linguaggio che piace molto a chi ci segue, e con coloro che lo fanno ormai da anni si sono aggregati tutta una serie di ragazzi che sono alle loro prime esperienze e che sono entrati in squadra molto bene. Quindi il mercato ci ha aiutati, perché poi c'è stata una Juventus protagonista in un anno in cui l'Inter non ha fatto praticamente niente, però è tornato il Milan soprattutto nella parte finale, poi ci sono state le medie che hanno speso, si sono mosse, abbiamo seguito anche il mercato europeo, e quindi è stata un'esperienza, ripeto, un po' stancante, però molto molto piacevole. Un modo per riatterrare, no? Comunque nell'attualità, visto che quello l'attualità proponeva. Io non sono molto pratico di dati di mercato, ma adesso soprattutto tu te la cavi fino a quando? Fino a gennaio? Io fino a gennaio, sì. Fino a gennaio respiriamo, finalmente parliamo di calcio giocato, e questa è una cosa molto piacevole, però sappiamo bene che finisce il mercato è finito il 31 agosto solo formalmente, nel senso che poi basteranno 3-4 giornate per cui i tifosi cominceranno a chiedere rinforzi, si comincerà a riparlare del mercato di gennaio. Ho il sospetto che alcune operazioni che non sono andate a bersaglio entro il 31 agosto, un po' per mancanza di tempo, un po' perché magari sono state semplicemente abbozzate delle trattative, andranno poi a chiudersi in gennaio o comunque alla fine dell'anno, a giugno, perché scadono molti contratti il 30 giugno, e quindi è sempre calciomercato. Vedi che ci stai prendendo gusto comunque, perché insomma, ho l'impressione che sia una potrebbe essere una nuova destinazione. Fabio, invece adesso ti rimetti la giacchetta per cortesia, per qualche minuto, sì, la giacchetta di ministro degli esteri, quindi la roba, non dico la feluca da ambasciatore, ma insomma una cosa... Una cosa seria. Di Spagna abbiamo già accennato, e comunque capita spesso, anche indirettamente, è capitato in questi giorni, tra Ibrahimovic e Barcellona e dintorni, di soffermarci. L'Inghilterra vediamo, però quello che mi incuriosisce è come è ripartita la Germania. Perché mi sembra che anche quest'anno, per l'ennesima volta, poi magari vince il Bayern, come insomma una volta su tre succede, ma mi sembra che anche quest'anno ci sia di nuovo una discreta alternanza verso il vertice. È davvero difficile riuscire a capire davvero il calcio tedesco che cosa possa esprimere quest'anno, perché ci sono le grandi squadre, lascio perdere il Bayern perché non c'è bisogno che dica che il Bayern è una grande squadra, però ci sono lo Schalke 04, ci sono l'Hamburgo, ci sono cioè lo stesso Werder Bremen che abbiamo visto a tratti bene contro la Sampdoria e poi andrà verificata poi in Champions contro l'Inter. Cioè c'è, ad esempio, c'è il Wolfsburg che inizia una partita, presenta Diego, va avanti 3-0 e poi perde 4-3. Sì. Cioè, cose che sinceramente fanno pensare. Ora, la taratura va fatta secondo me fra un mese, però già il fatto che il Bayern di Monaco abbia perso una partita a Kaiserslautern in maniera anche abbastanza evidente dimostra che il calcio tedesco è cresciuto, mentre negli anni scorsi era cresciuto a livello delle terze forze o delle seconde forze, se vogliamo. Sì. Adesso credo sia cresciuto a livello complessivo, cioè dalla prima alla decima troviamo tutte formazioni che possono fare, diciamo, possono fare classifica, se stessimo parlando del Giro d'Italia, sì, di ciclismo. Certo. Poi ripeto, vincerà sempre Armstrong, cioè il Bayern di Monaco, però la sensazione netta è che la forbice tra la prima e la decima quest'anno sarà molto molto stretta. Spostiamo in Inghilterra, perché c'è una domanda in un ascoltatore che chiede: come mai a parer tuo il Chelsea non ha comprato attaccanti? La domanda è di Paolo da Mantova. Ma il Chelsea ha dei cordoni della borsa molto stretti quest'anno, non solo da quest'anno, nel senso che Abramovic ormai da un paio d'anni ha deciso che la squadra si deve autofinanziare e che quel periodo è già abbondantemente finito. Credo che trovare un attaccante che possa dialogare con Drogba sia molto complicato, nel senso che Drogba è un giocatore che fa reparto da solo e che ha anche bisogno di sentirsi sempre al centro dell'attenzione e tutto il resto. Da un punto di vista complessivo credo che il Chelsea abbia bisogno di un attaccante in più, però è anche vero che grandi attaccanti a livello di Drogba, o comunque a livello di Anelka, a livello di grandi giocatori, non se ne sono mossi. Alcuni giocatori potevano essere di interesse del Chelsea, credo anche che il Chelsea abbia fatto dei sondaggi per prendere dei giocatori in attacco, ma o si spendono una valanga di soldi e allora si prende Fernando Torres, o l'incognita tra l'altro di un Fernando Torres che è in una fase un po' complessa della propria carriera, oppure no. E credo che saggiamente il Chelsea quest'anno si sia astenuto da un tipo di politica di eccessivo allargamento dei cordoni della borsa. Non dimentichiamoci che l'obiettivo del Chelsea anche quest'anno sarà soprattutto la Champions League, e quindi in linea puramente teorica ma anche pratica un attaccante in una competizione come questa ti può sempre servire, perché non è sempre detto che Drogba faccia gol, non è sempre detto che Drogba riesca, certo, ad essere decisivo, e Drogba stesso ha dimostrato poi in passato nelle partite decisive di perdere un po' la testa. Quindi la risposta è: avrebbe dovuto comprarlo, ma per comprare un giocatore bisogna spendere, e in questo momento Abramovic non vuole spendere. Sì, al contrario, e chiudiamo, di chi invece si è levato la voglia davvero quest'estate in Inghilterra di comprare e di spendere. Leggevo stamane che il saldo negativo della campagna del City, del Manchester City, supera i 100 milioni di euro. Con quale efficacia di risultati in prospettiva per il tuo? Per ora nessuna, Gigi, perché il Manchester City è ancora in un grande cantiere nel quale ci vorrà davvero tanto da parte di Roberto Mancini per renderla una squadra, come dire, omogenea e presentabile. Le caratteristiche, le capacità e tutto fa pensare che il Manchester City possa qualificarsi per la Champions League. Credo anche che gli sceicchi abbiano una dose di pazienza che possa non essere infinita, e quindi sarà molto importante che Roberto Mancini già adesso cominci ad avere risultati, e non sempre li ha avuti, e soprattutto possa cominciare a far giocare la squadra come Roberto Mancini ci ha abituato a far vedere le sue squadre, cioè squadre capaci di giocare un calcio certamente gradevole. Però ancora non è successo. Al momento non risulta. Grazie a Fabio Tavelli. A voi, a presto. Grazie, chiudiamo questo collegamento con Sky Sport 24 e torniamo brevemente, direi, a Coverciano per sentire altri due interventi. Uno di Giuseppe Rossi. Io sento la fiducia di Prandelli, sento la fiducia dei miei compagni, e questo è molto importante. Siamo in tanti. Tanti attaccanti, tutti bravissimi, e quindi penso che sia molto difficile cercare, ecco, di trovare gli spazi, però questo va solo bene per la squadra. Mentre rimbalza un altro frammento di conferenza stampa di Prandelli che si dice si compiace degli ultimi acquisti di Milan, Roma e Juventus, perché dice adesso tutte queste tre squadre sono rinforzate, spero davvero che si possa vivere un campionato più equilibrato al vertice, sottintendendo evidentemente che da un campionato più equilibrato è più facile ricavare spunti, e spunti in questo caso sono idee di convocazioni di giocatori. Ancora un intervento da Coverciano, quello di Chiellini. Un progetto nuovo con tanti giocatori nuovi, speriamo il più tardi possibile, però qualche errore fa parte anche del gioco e anche della ricostruzione di una squadra. Non è facile riuscire ad arrivare subito a risultati ottimali, quindi cerchiamo di arrivare all'europeo, crescere in questi due anni e poi uno fa una valutazione, però anche qua, insomma, queste due partite, non, soprattutto secondo me la prima, non è così scontata come sembra, bisognerà comunque sudare, ci sarà da faticare come abbiamo sempre fatto, e poi a ottobre abbiamo due partite comunque fuori con l'Irlanda del Nord, in casa con la Serbia, che ci incominceranno a dire un po' di più a che punto siamo già in questo momento. Effettivamente, a parte la parentesi con le Farer, almeno si spera, in casa a Firenze non sono partite, e non è un girone semplicissimo, lo sarebbe stato per un'altra Italia, ma per questa, in piena fase di ricostruzione, di tentativo di ricostruzione, non è esattamente una passeggiata. Capello riapre le porte a Beckham, almeno così leggo in un titolo dell'agenzia appena battuto, alla vigilia dell'esordio delle qualificazioni Euro 2012, le porte della nazionale sono aperte per tutti, ha detto Capello. In questo momento preferisco chiamare i giocatori più giovani, ma tutti i giocatori inglesi possono essere convocati. Dato che lo ha sottolineato un paio di volte, evidentemente questo può comprendere anche Beckham, che sta recuperando da quel lungo infortunio al tendine d'Achille che ha accusato a marzo e che gli ha fatto saltare il campionato del mondo. Potremmo sentire ancora un frammento di Malesani, perché Malesani è stato presentato ufficialmente ieri, ha già diretto i suoi due primi allenamenti a Casteldebole alla guida del Bologna. Sentiamo. Tu devi offrire anche dello spettacolo, quindi mi piace vedere la squadra giocare, perché questa è l'aspettativa del tifoso. Il tifoso vuole vincere, sì, ma vuole vedere anche giocare a calcio. Ecco. Io, questi anni qua, credo che qualcosa, insomma, sono riuscito a fare in questo senso qua. Dobbiamo ascoltare una sigletta del prefinale. Sport e motori. Pisano, domenica. Questa ci illustra le caratteristiche del circuito. Dovizioso. Pisano è una pista particolare, nella prima parte è molto lenta, quindi hai bisogno di una stabilità a bassa velocità, e soprattutto a metà pista ci sono tre curvoni ad alta velocità che freni con l'angolo, quindi hai bisogno di molta stabilità sul davanti. E se queste sono le caratteristiche del percorso di Misano, illustrate per l'appunto da Andrea Dovizioso, sentiamo che tipo di gara l'atleta si immagina possa svilupparsi. No, qua a Misano logicamente molti vogliono vincere, una gara importantissima, diciamo poco dopo metà della stagione, quindi tante aspettative da tanti e soprattutto da noi. Ci aspettavamo di più in gara in Indianapolis e in prova eravamo andati molto forte ed era una pista che l'anno scorso eravamo andati molto male, invece qui eravamo andati meglio l'anno scorso, quindi penso che possiamo far bene. Siamo arrivati così anche alla conclusione dell'appuntamento di oggi. C'era Pietro Lacorte in regia, c'era Franco Piantanida in redazione. Grazie a tutti, buon pomeriggio.